Non so se abbiamo già parlato. Quando è arrivato ottobre, settembre-ottobre, non ricordo più il mese preciso, del 44, noi avevamo c'è stato un periodo che c'era venuto dagli americani che non si doveva più combattere quell'inverno lì e dovevamo dare in città. E una parte è partita che è andata a Casteldebole, dove c'è stato. E noi eravamo a Ponte Ronca, in una trentina, che dovevamo raggiungere quelli di Casteldebole. E a Casteldebole c'era la piena, non sono potuti andare di là, e loro ci hanno detto di star fermi un'altra notte. In quella notte lì sono stato un delatore, ha fatto lo spia, e quelli che c'erano là l'hanno ammazzati tutti. E allora noi siamo tornati indietro, non siamo andati insomma, hanno disdetto questa cosa perché li avevano fatti fuori tutti, se aspettavano un giorno noi eravamo tutti là. E dopo, da quella volta lì, siamo andati, hanno organizzato per andare di là dal fronte.